Salva Danaio di Deborah Rosciani. Premessa: non tutto il male viene per nuocere. Ogni crisi è riconducibile in ultima istanza a un'assenza di buon senso. Quella che viviamo oggi non fa eccezione, originata da una progressiva perdita di raziocinio che passo dopo passo ci ha portato a quanto vediamo ogni giorno. Anche questa volta il disastro si è formato con gradualità e gli osservatori più attenti potevano scorgere segni di grande preoccupazione nei medesimi dati di cui altri, i banchieri, godevano e che altri ancora, i politici, fingevano di non vedere o non capivano, guardando piuttosto a quale lobby appartenessero le istituzioni finanziarie in maggior sviluppo. In quel clima, un paio d'anni prima dello scoppio della crisi nel maggio del 2005, usciva I sogni del faraone, che in piena bolla finanziaria evidenziava le grandi storture di quel settore, suggeriva i rimedi e ammoniva sulle possibili conseguenze della non azione. Pagine di buonsenso parlavano di un'automobile dalle ruote quadrate, metafora del sistema finanziario internazionale, allora solo in procinto di immobilizzarsi come un veicolo che monti appunto ruote quadrate, cui l'inerzia ha consentito di procedere fino all'estate del 2007 ed è oggi ancora inesorabilmente immobilizzata. Da allora, fiumi di inchiostro continuano a scorrere sulla crisi che nel frattempo si è palesata nella sua dimensione globale, nell'accezione tanto geografica quanto umana, crisi internazionale della finanza, ma anche crisi dell'intero sistema di valori dell'uomo. Da allora fiumi di inchiostro continuano a scorrere sulla crisi, ma anche fiumi di parole. Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a questa puntata speciale di Salva Danaio del 31 dicembre, una delle nostre puntate speciali con le quali abbiamo deciso di farvi compagnia in queste giornate di festa. Come vi abbiamo già ricordato in occasione della trasmissione del 24 dicembre, la vigilia di Natale, anche oggi abbiamo tratto spunto per il nostro programma da un libro di recente pubblicazione. Per la verità, il libro di cui parliamo oggi è il quarto di una serie iniziata nel 2005 e l'abbiamo proprio citato, il capostipite di questa serie, nella premessa che abbiamo letto poco fa, per iniziativa del presidente amministratore delegato di una società di consulenza finanziaria che si chiama Idea Impresa. Lui è Luigi Bellavita, che saluto. Dottor Bellavita, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno anche a lei. A presentarci gli radioascoltatori. In radio. A presentarci la sua fatica appunto letteraria sulla quale si sta impegnando da tanto tempo e ha naturalmente in questi anni osservato tutte le sfaccettature di questa crisi, ma soprattutto l'ultimo libro che presentiamo oggi, non ho ancora presentato il titolo, è La falce del faraone, 10 regole d'oro per investire in modo remunerativo e sicuro, edito da Guerini e Associati. La voglio provocare immediatamente, sa quanti libri sono stati scritti su questo argomento negli ultimi anni, che cos'ha di diverso il suo? Dunque, quanti libri sono stati scritti non glielo so dire. Che cosa ha di diverso il mio? Perché il mio, io non do dei suggerimenti su che cosa acquistare, ma sono delle semplici raccomandazioni. Quando si va da un intermediario finanziario, che sia una banca, che sia un professionista, che sia bravo o meno bravo, alcune norme di comportamento, soprattutto alcune richieste di chiarimento, per non essere invogliati ad imboccare una strada sbagliata, che purtroppo in questi anni hanno portato a dei disastri finanziari veramente notevoli. Poi ricorderemo anche la storia che è stata raccontata, inventata da lei naturalmente negli altri libri e quindi che cosa anche è contenuto in questo quarto volume, ma le chiedo, lei è stato anche, mi viene da dire, un capitano di lungo corso della banca, un dirigente bancario per moltissimi anni. Nei suoi testi dà anche qualche strigliata al sistema, perché non è che si sia comportato molto bene negli ultimi anni? Diciamo che le strigliate sarebbero tante da dare, le che tirate d'orecchie non è che si possono incasellare, perché riguardano varie argomentazioni. Quello che in ogni caso credo che sia importante dire è che rispetto alla prassi che esisteva nelle banche fino alla fine degli anni 1900 è stato un comportamento assolutamente diverso, in quanto prima si cercava di andare a vedere le esigenze del risparmiatore suddividendolo per la sua posizione di rischio. Oggi invece assistiamo a delle banche e degli intermediari finanziari che hanno in mente solo dei target di o di profitto o di volume di affari, e ad un certo punto non importa chi si presenta in banca, e questi magari si vedono attribuire investimenti che logicamente non sarebbero dati alla loro posizione. In questi anni non è cambiato nulla, dunque, dal suo punto di vista. Le banche continuano ancora a ricercare il massimo profitto dalla propria attività, non c'è stato nessun tipo di autoregolamentazione all'interno del sistema, nonostante i regolatori abbiano fatto tanto in questo senso. Io onestamente ho visto le varie sforzi che sono stati fatti dalle autorità per cercare di dare maggiore trasparenza. Quando però osservo i risultati che vedo sul mercato, onestamente non posso dire di avere visto dei notevoli cambiamenti. Le posso citare un esempio: quest'estate ho incontrato in vacanza una pensionata che agli inizi degli anni 2000 si era recata in banca per investire i propri risparmi. Si trattava di 200.000 euro, che possono essere tante o poche. Però per una vecchiaia serena è una cifra... Benissimo, questi sono stati investiti interamente in polizze vita, magari index link, qualcuno in titoli strutturati. Che sono queste polizze, lo voglio ricordare agli ascoltatori, cui il rendimento è agganciato ad un altro prodotto finanziario, magari azioni o obbligazioni di altro genere detenute da altre società. Sì. Oppure andamento di un mercato borsistico. Il problema è che sono costruiti in modo tale che la rivalutazione, quella che viene sottolineata così positivamente al momento del collocamento del titolo, poi alla fine non si verifica mai. Mm-mm. Il risultato è che praticamente a questa signora cosa è successo? A questa signora è successo che tutti i quattro prodotti venduti per un totale di circa 200.000 euro sono stati rivenduti prima della scadenza, con una perdita media che oscilla dal 40%. A questo, se poi aggiungiamo che per tutti gli anni che sono stati impiegati, mediamente 6 o 7 anni, non è stata percepita una lira di interesse, quindi abbiamo una perdita che ad un certo punto si avvicina al 50%. Per questa persona la consulenza è stata tutta sbagliata, non ha diversificato nulla, ha concentrato tutto il suo risparmio in un'unica tipologia di prodotto, e poi naturalmente nessuno le aveva spiegato che disinvestendo prima della scadenza naturale di questi prodotti avrebbe perso praticamente la metà del valore. Quindi questo per dire, insomma, quando ci sottopongono un tipo di investimento come questo, non lo vogliamo demolire a priori, però non è neanche giusto concentrare tutto il nostro risparmio in un unico prodotto. Andiamo lì. Libro, dottor Bellavita, La falce del faraone è l'ultimo di questa serie che, lo ricordo ancora, è iniziata nel 2005. Il primo volume si intitolava I sogni del faraone, i grandi tradimenti consumati e in preparazione dei risparmi degli italiani. Come le venne questa idea e soprattutto chi è questo faraone? Siamo noi? È lei? È un altro personaggio di sua invenzione? Dunque, guardi, più che al faraone, qui bisognerebbe riferirci al suo consulente, cioè al suo consigliere Giuseppe. Perché Giuseppe... Il che consigliere oltre... di questo faraone, il che si chiama Giuseppe nel libro, ecco, non il mio. diciamo che Giuseppe è praticamente, più che il consigliere, può essere considerato il primo economista della storia, che è stato in grado di individuare i cicli economici e di ricorrersi dei cicli economici. Non solo, ma è stato anche un economista che è stato in grado di trovare degli antidoti a dei cicli, a creare delle difese a questi cicli economici. Difatti, quando è stato fatto viceré dell'Egitto, non ha esitato a prelevare le abbondanze di raccolte negli anni di abbondanza e a ridistribuirle negli anni di carestia. Quindi abbiamo praticamente una figura storica che può essere presa come punto di riferimento nei periodi e nelle situazioni difficili. In verità le posso dire che il sogno del faraone è nato più che altro come un gioco, perché all'inizio del 2000 tutti i banchieri e intermediari erano tutti entusiasti dei nuovi prodotti finanziari. C'era l'illusione che ad un certo punto che la possibilità offerta da questi prodotti, soprattutto dal punto di vista assicurativo, sarebbe stato in grado di eliminare gli effetti negativi delle fasi critiche del ciclo economico. In realtà, se poi guardando attentamente il comportamento di tutti i vari operatori, si cominciavano a vedere delle storture e si cominciavano ad avere a nutrire delle paure che la cosa non sarebbe andata così bene. In pratica la cosa che più strideva era quello che prodotti che avevano una finalità di tipo assicurativo venivano utilizzati anche dai più grandi istituti finanziari come con un'ottica di tipo speculativo. Allora praticamente si trasformava e si andava a rincarare la pericolosità di questi prodotti, creando delle bolle speculative che erano molto più alte. Sono tanti prodotti che sono stati distribuiti, per esempio, tra le aziende a copertura dei rischi di esposizione sul mercato, dei rischi valutari e quant'altro, invece appunto erano solo molto remunerativi per gli istituti, effettivamente, esatto, gli soggetti che li erogavano. Questo suo primo libro, Bella Vita, lei l'ha scritto nel 2005. In realtà, se facciamo un passo indietro, noi l'avvio di questa ultima crisi recente, ancora pesantissima, la datiamo 2007-2008, 2008 settembre, con il crollo, il crack, la bancarotta di Lehman Brothers. Nel 2005, sono tre anni prima. Che cosa la stuzzicava in quel momento, al punto tale da dover scrivere un libro su appunto le attenzioni che i risparmiatori e i piccoli investitori devono fare quando sottoscrivono un prodotto di investimento? Cioè, che cosa non le andava in quel periodo? Non mi andava il fatto come venivano venduti certi prodotti, come venivano costruiti certi prodotti, l'illusione che veniva data nel collocamento di questi prodotti come la vendita di una sicurezza assoluta, quando praticamente già si stavano accomunando delle posizioni speculative, soprattutto da parte delle merchant bank più attive sul mercato, di creare delle vere e proprie posizioni di rischio, tant'è vero che poi è sfociato nel clima Lehman Brothers. Ho incontrato solo quest'anno un professore di economia, che fra l'altro, se mi permette, le posso fare il nome, professor Paganetto dell'Università Tor Vergata di Roma, ed è il primo professore di economia che sta cercando di capire, di rendersi conto di quello che è successo sui mercati finanziari. Oggi abbiamo dei professori di economia che non si sono ancora resi conto che il problema della liquidità è un problema gravissimo, gravissimo non perché ce ne sono troppo come alcuni dicono, ma probabilmente perché è ingessata. Ce n'è troppo poco, mal distribuita, ma non si riesce più a capire dove sia finita, e soprattutto abbiamo delle banche che hanno creato della liquidità, io dico fasulla, potrebbe essere falsa, inteso nel senso che hanno dato dei fidi senza avere la corrispondente raccolta, e quindi praticamente oggi si trovano in una situazione che non è di equilibrio finanziario. Allora, nel suo ultimo manuale, La falce del faraone, 10 regole d'oro per investire in modo remunerativo e sicuro, noi abbiamo dato lettura anche ad alcune di queste 10 regole, partendo appunto con la prima, che ci è sembrata quella più somigliante, dottor Bellavita, anche alla fase che stiamo vivendo in questo momento: la grossa difficoltà dell'euro, il mantenimento della sua esistenza. Tutti coloro pensiamo che l'hanno messa in discussione la moneta unica europea in questi ultimi mesi. Sentiamo allora la regola numero uno del manuale del risparmiatore degli anni 2000. Manuale del risparmiatore degli anni 2000. Euro. Abbine cura. Regola numero uno. Io sono il primo euro comparso nel tuo salvadanaio. Per la verità, a quell'epoca ero conosciuto come lira. Insieme a tutti gli altri che sono arrivati in seguito, ti sono costato tanti sacrifici e un abbondante sudore della fronte. Durante questi lunghi anni ho condiviso momenti esaltanti e passaggi più difficili. Ho contribuito a partecipare discretamente alle tue gioie e alla tua felicità e ho cercato di alleviare, nel limite del possibile, i tuoi momenti più difficili e complicati. Abbiamo avuto molte occasioni di sperimentare esaltanti esperienze professionali che sono state in grado di coinvolgere positivamente un numero sempre crescente di risparmiatori e di piccoli investitori. Ora ti chiedo il massimo rispetto. Mi potrai usare per procurarti nuove esperienze, aiutare chi socialmente si presenta nelle situazioni più disagiate. Potrai anche cercare di rendere più accettabili le situazioni più ardue e complicate, ma non potrai permetterti di trattarmi con faciloneria, mettendo in pericolo la mia esistenza e la mia sopravvivenza. Che tu mi creda o no, avrai sempre bisogno della mia vicinanza e della mia amicizia. Senza di me saresti obbligato a ridisegnare non solo la tua esistenza, ma anche le tue alleanze con gli uomini e con i tuoi ideali. Non dimenticarti di me, non trattarmi con noncuranza, proteggimi e non assumere nei miei confronti un atteggiamento di strafottenza e di menefreghismo. Non delegare le decisioni che riguardano i miei destini ai tuoi consulenti. Questi potranno fornirti utili consigli e suggerimenti, ma è opportuno che le decisioni definitive ricadano sotto la tua diretta responsabilità. Solo tu, infatti, conosci tutta la mia storia, permettendoti così di effettuare le scelte che si presenteranno più idonee per i tuoi programmi futuri. Dottor Bellavita, molto bello questo dialogo ipotetico fra la moneta unica europea e il consumatore, appunto, tra l'altro in una fase in cui l'euro ancora non viene considerata importante a sufficienza in termini di moneta che riesce a mantenere l'equilibrio economico di questo vecchio continente. Effettivamente l'unione economica e monetaria europea è una frammentazione di economie diverse, appunto, che hanno anche affrontato la crisi in maniera diversa. Basti pensare al solito raffronto che facciamo fra la Germania, l'Italia, la Germania e la Spagna, e lo identifichiamo appunto nello spread, questo confronto. Perché è voluto partire con questa regola? Prendiamoci cura della nostra moneta. Perché credo che, al di là di quello dei timori che esistono sul mercato, l'euro è stato anche nei momenti più di crisi una delle monete più affidabili. Cioè, fare il confronto fra la situazione della Germania e l'euro mi sembra un po' misleading, nel senso che praticamente la Germania fa parte dell'euro. E credo che oggi come oggi, se noi guardiamo il panorama delle varie monete, l'euro si presenta come una delle monete più solide, che non ha praticamente nessuna crisi. Io ritengo che oggi l'euro sia più solido del dollaro. Se guardiamo addirittura un parametro che ha perso la propria efficacia, ma se noi guardiamo le riserve auree della comunità europea, sono superiori addirittura a quelle degli Stati Uniti. Allora, io credo che la crisi che c'è stata nel 2011-2012 sull'euro sia stata più una crisi di mercato, una crisi dovuta a una forte speculazione che si è scatenata nell'intesa di guadagnare il massimo di importi differenziali. Tant'è vero che è bastato che il 2 di agosto di quest'anno il governatore della Banca Centrale Europea Draghi, il Super Mario che si è guadagnato nelle ultime settimane la copertina del Times, appunto, come uomo dell'anno, Direi che è bastata una dichiarazione forte, decisa, per ricondurre tutti alla normalità. È stato ristabilito un clima di fiducia, e guardi, senza pur comprare un titolo, mentre prima ne erano stati comprati molti, praticamente la fiducia si è stabilita proprio per il diverso atteggiamento e la diversa dichiarazione, la diversa volontà, soprattutto nella Banca Centrale Europea, di non far mancare il proprio intervento a favore di tutti. La ricordiamo tra l'altro questa dichiarazione di Mario Draghi, che appunto calmò sensibilmente i mercati. Poi abbiamo avuto negli ultimi mesi ancora alti e bassi, però il tema fu di dire: comprerò tutti i titoli di Stato dei paesi in difficoltà che ne faranno richiesta qualora ci fosse bisogno, per importi illimitati. Quindi la Banca Centrale Europea, pur non avendolo nel suo mandato, si dichiarò disponibile ad interpretare in modo tale il proprio statuto da poter dare tutta la liquidità necessaria al sistema per affrontare appunto la crisi finanziaria. Dottor Bellavita, quindi insomma è stato un momento difficile quello, ma è bastata quella dichiarazione per farci capire quanto questa moneta appunto è importante, quanto è importante appunto che venga mantenuta, anche se poi dobbiamo trovare l'unità politica in questa vecchia cara Europa. È vero, però guardiamo che l'unità monetaria è stato un collante eccezionale. Se non ci fosse stata l'unità monetaria, forse saremmo qui ancora oggi ad aspettare l'Unione Economica Europea. Quindi credo che fra le cose sia importantissimo, e direi che fra l'altro il riconoscimento che il 12 di ottobre il premio per la pace assegnato all'Unione Europea è un premio importantissimo, non tanto dal punto di vista economico, ma dal punto di vista significativo, in quanto le motivazioni poi l'hanno sottolineato molto bene quando hanno detto che l'Europa, continente praticamente belligerante, gli ultimi mille anni dell'Europa sono stati passati da una guerra all'altra. Basterebbe guardare che tra la Germania e la Francia in 70 anni sono riusciti a concludere ben 3 conflitti, oppure basterebbe guardare i primi anni 50 del 1900, quando si, oltre a 2 guerre mondiali, si è poi passati da un conflitto all'altro praticamente senza soluzione di continuità. L'instaurazione, la costituzione dell'Unione Europea praticamente ha permesso di dare all'Europa oltre 50 anni di pace, e stiamo praticamente vivendo un periodo che da questo punto di vista ha fatto indirizzare gli sforzi delle varie nazioni da quello che è la guerra tra i vari paesi europei a quello che è uno sforzo di crescita economica. Bella vita, ritorniamo in Italia. Leggo i titoli di alcuni dei capitoli del suo libro. Mi interessa sapere qual è la sua percezione in questo momento del sistema bancario italiano. Abbiamo avuto un sistema che non ha avuto bisogno di aiuti di Stato, almeno nei momenti più delicati della crisi, con l'eccezione recente dei Monti Bond che sono stati sottoscritti appunto per conto di Banca Monte dei Paschi, comunque importo contenuto se andiamo a considerare invece le grandi crisi di altri grandi istituti di credito europei ed internazionali. È stata sicuramente una buona cosa, e però insomma queste banche continuano a non far prestiti alle famiglie, a non erogare credito alle imprese. Qual è la condizione di salute del sistema bancario italiano secondo il suo punto di vista? Ma guarda, io credo che la condizione di salute del sistema bancario italiano sia leggermente migliore di quello che noi giornalisti scriviamo. Di quello che è la situazione di salute di tutto il sistema bancario internazionale, inteso nel senso che le banche italiane stanno cercando di riequilibrare. Il problema è che tutto il sistema bancario internazionale è squilibrato, ed è squilibrato principalmente perché per una decina d'anni sono stati fatti più prestiti, più finanziamenti alle imprese di quelli che avrebbero dovuto essere fatti. Cioè, una vecchia regola dei migliori istituti bancari era quello che il totale dell'operazione di impiego non avrebbe dovuto superare l'80-90% del totale della raccolta. Secondo diverse fasi siamo arrivati al 120%, ma secondo altre fasi addirittura al 174%. Certo, insomma. Allora è facile capire. Se ho un reddito di 1000 euro e ne spendo 1500, è chiaro che prima o poi la questione salta, insomma la situazione salta. Sì, ma c'è anche un altro problema, che se vuol dire che se la banca ha una raccolta di 1000 euro e ne presta 2000, vuol dire che praticamente ha creato 1000 euro di moneta. Allora forse potremmo riferirci un po' alla situazione post-bellica, quella del 1943 dell'Italia, quando il generale Alexander è sbarcato in Sicilia ed ha portato le cosiddette amlire, sulla quale magari varrebbe la pena spenderci qualche cosa, che hanno addirittura portato il potere di acquisto della lira italiana da 1000 a praticamente alla svalutata di oltre 10 volte. Il libro che vi presentiamo si intitola La falce del faraone, 10 regole d'oro per investire in modo remunerativo e sicuro. L'autore è Luigi Bellavita, in realtà scritto a quattro mani questo volume. Dottor Bellavita non l'abbiamo ricordato perché l'ha fatto anche con un suo collega che si chiama Pierluigi Novello. Allora, in questo volume tante indicazioni interessanti su quella che è stata la crisi dei tempi recenti, e ancora crisi naturalmente, quindi un'analisi anche di quello che è successo e di quelle che sono state naturalmente le problematiche più importanti per quello che riguarda i piccoli risparmiatori. Peraltro, come abbiamo già avuto modo anche di segnalare nella prima parte del programma, in questo libro Luigi Bellavita presenta anche le 10 regole d'oro, è il sottotitolo lo stesso del testo appunto, devono essere tenute ben presenti appunto dal piccolo risparmiatore quando va in banca e sottoscrive un prodotto di investimento. D'altronde, dottor Bellavita, per fortuna ancora gli italiani ce la fanno ad accantonare qualcosa, hanno cominciato ad erodere i loro risparmi in tempi recenti, però ancora sono dei grandi risparmiatori, sono delle gran formichine, per cui è bene che si protegga questo risparmio. Che dice? Beh, direi di sì, questo è una raccomandazione ed un invito a tutte le autorità, che credo che il risparmio va sempre protetto, e magari se si riuscisse a migliorare questo tipo di tipologia di protezione ci sarebbe tutto da guadagnare. Che cosa ancora c'è da migliorare allora? Ce lo dica subito. Direi che c'è da migliorare la trasparenza, c'è da migliorare la comprensione della tipologia di rischio che il risparmiatore potrebbe accettare per quanto riguarda la sua figura tipica. C'è da migliorare uno sforzo da parte degli consulenti nel cercare di capire, di suggerire prodotti che sono più nell'interesse del risparmiatore che non nell'interesse della banca o dell'intermediario appunto che vende, che magari appunto in certi periodi spinge un po' la rete di consulenza a dire: vendi questo prodotto che ti fa remunerare bene, così facciamo un bel budget per la fine dell'anno e ce lo ridistribuiamo tra tutti. Allora, le regole del manuale del buon investitore. La regola numero 4, ascoltiamocela. Quando vi capita di ascoltare la pubblicità di un prodotto finanziario che vi offre la luna e tutte le stelle del firmamento, domandatevi subito dove sta la fregatura. Tutti gli investimenti affidabili e raccomandabili non possono garantirvi rendimenti superiori ai tassi esistenti sul mercato per prodotti con uguale grado di rischio. Tutti gli investimenti affidabili e raccomandabili non possono garantirvi rendimenti superiori ai tassi esistenti sul mercato per prodotti con uguale grado di rischio. L'extra rendimento può solo derivare dall'assunzione da parte vostra di un maggior livello di rischio, le cui eventuali conseguenze negative rimarranno esclusivamente a vostro carico. Un tipico esempio è quello delle polizze vita, dove la società assicurativa emittente spesso subordina il pagamento del capitale finale al corretto assolvimento degli obblighi di una terza controparte. Nel malaugurato caso di default di quest'ultima, la compagnia emittente si ritiene esonerata dall'assolvimento dei suoi doveri, di mettere cioè a disposizione il capitale assicurato. È curioso notare come l'insolvenza di un soggetto terzo danneggi esclusivamente l'assicurato, nonostante la scelta di un prodotto, la polizza vita, che dovrebbe rappresentare la massima protezione in termini di sicurezza. Va ricordato che i rischi di pericolose scivolate o di rovinose cadute, dalle quali a volte è molto difficile rialzarsi, sono nascosti in quei titoli che vengono definiti collateralized debt obligation. Ce ne sono anche tanti altri in circolazione di prodotti di investimento con nomi stravaganti e invece dovremmo magari denominarli tutti in maniera più semplice e farli capire. Nella regola numero 3, dottor Bellavita, ritorno a questa perché ha un attacco davvero molto bello. Lei scrive: contadino, scarpe grosse, cervello fino, era questa la simpatica definizione con la quale venivano individuati gli addetti ai lavori agricoli. Perché torna alla regola 3? Perché quando noi andiamo in banca siamo un po' tutti contadini con le scarpe grosse e il cervello fino. Siamo un po' tutti impreparati a gestire la tematica finanziaria perché tutti noi facciamo un lavoro diverso e non è detto che dobbiamo per forza conoscere bene quello che il bancario ci vende. Quindi dobbiamo fare noi più sforzi per imparare meglio quello che sottoscriviamo, capirlo meglio, o è più il consulente finanziario che deve fare uno sforzo a far bene questo suo lavoro? Dunque, direi che forse negli ultimi tempi abbiamo magari dimenticato fuori dalla porta il nostro cervello fino, perché ci sono stati presentati dei prodotti difficilissimi da capire, ne dico a volte anch'io che ho lavorato in banca per molti anni, quando vado in banca interrompo e gli dico scusi che cosa mi sta dicendo, ma proprio perché non riesco a seguire la spiegazione. Allora io mi domando, ma quando viene portato un prodotto di questo tipo all'attenzione di uno che non ha cultura finanziaria, di uno che magari ha una pensione e non ha mai fatto attività finanziaria, allora dovrebbe fermarsi un attimino e cominciare a dire scusi, me lo può spiegare un attimino questo prodotto, come funziona, com'è? E nel caso in cui non riesce a capirlo, non riesce a comprenderlo, a ringraziarlo e dice mi dia qualcos'altro, magari un bel bot o un bel BTP. Nel quale di rischi praticamente ne assumo pochi e se non altro è la misura tipica del rischio che il mercato e il rendimento finanziario esprime in quel momento. Eppure anche i bot sono diventati un po' più rischiosi del passato in tempi recenti, anche qua un'altra certezza dei risparmiatori che... Questo non lo capisco, me lo spiega perché... Nei momenti più importanti della crisi recente, lei quando il BTP è arrivato a rendere vicino al 7%, che era quella soglia ovviamente molto critica nell'estate del 2011, anche lì insomma è chiaro che non è equiparabile un titolo di Stato ad un prodotto costruito in maniera finanziaria complessa, agganciata ad altri prodotti, però in certi momenti l'investimento free risk è scomparso, questo lo sa anche lei. Su questo io non sono d'accordo. Creiamo un po' di conflitto, ma mi pare divertente, anche ci mancherebbe Non sono d'accordo nel senso che l'investimento in titolo di Stato ha sempre costituito l'investimento di rischio migliore per il cittadino dello Stato, cioè per me italiano, il rischio su quale il mio free risk è rappresentato dal titolo di Stato. Io ho lavorato nel settore finanziario per molti anni e quando noi andavamo sui mercati il titolo free risk era rappresentato da un titolo di Stato, normalmente legato alla medesima durata dell'investimento alternativo, al quale sull'investimento alternativo occorreva aggiungere 2, 3, 4 punti di spread per parificare il rendimento. È vero che il titolo di Stato anche lui corre le oscillazioni di mercato, e quindi perde magari in conto capitale. Però non è vero che è a rischio, perché lo Stato paga sempre. Guardi che io sono contenta di questo messaggio positivo che ci sta dando, perché quando lo spread l'abbiamo visto a 570 noi ci siamo spaventati molto, per cui non eravamo contenti di parlare del titolo di Stato italiano come strumento di investimento a rischio. Per è vero, però lei si ricordi che chi ha fatto gli affari sono stati quelli che quando lo spread era a 570 scappavano, hanno avuto il coraggio di comprare i titoli certo, di Stato. Certo, ovvio, prima sono fuggiti, hanno provocato questo livello di innalzamento dello spread e poi sono corsi a ricomprare, eccoci qua, e poi che ci vengono a dire che non è speculazione finanziaria. Sentiamo la regola numero 5 per investire. C'è da scommettere che quando entrate in una concessionaria automobilistica per valutare la possibilità di sostituire la vostra vecchia vettura, non vi passa nemmeno per l'anticamera del cervello di verificare se la nuova auto è equipaggiata con delle vecchie, noiose e brutte ruote rotonde, oppure con delle nuove, sfavillanti, ma inutili e dannose ruote quadrate. Quando andate in banca per controllare i vostri investimenti, vi preoccupate di controllare la forma geometrica delle ruote con cui sono equipaggiati i vostri prodotti finanziari? Possono marciare agevolmente, perché le loro ruote hanno la funzionalità della forma circolare, oppure sono dei pachidermi immobili, perché la tanto sognata ruota quadrata non permette il benché minimo movimento. Prestate la massima attenzione, perché mentre non incontrerete mai un venditore di automobili che vi offrirà una vettura con le ruote quadrate, è quasi impossibile che il vostro consulente finanziario vi presenti prodotti con delle perfette ruote rotonde in grado di raggiungere agevolmente gli obiettivi programmati. I consulenti finanziari sono infatti più preoccupati di raggiungere i target in termini di commissioni incassate che di soddisfare le vostre aspettative sui risultati che vi attendete dai vostri investimenti. Alte commissioni di collocamento rappresentano solitamente sicure delusioni sulle performance finali dei vostri risparmi. È un vostro diritto, ma oserei dire anche un preciso dovere, quello di verificare, possibilmente sul prospetto informativo approvato dalle autorità di controllo, anche l'ammontare delle commissioni di competenza della banca collocatrice. Qualora il vostro consulente non fosse in grado di sottoporvi un regolare documento informativo, declinate cortesemente la proposta che vi è stata effettuata, poiché probabilmente quei titoli non possono essere collocati ai privati investitori, ma solo agli investitori istituzionali. Questo perché quasi sicuramente contengono condizioni e clausole sofisticate che richiedono la competenza professionale di un investitore specializzato per poterle attentamente valutare ed interpretare. Non ci stancheremo mai di dare queste raccomandazioni. Se qualcosa non ci convince, lasciamolo lì che tanto il consulente finanziario non gli succede niente se non gli sottoscriviamo seduta stante un prodotto di investimento che non capiamo. Luigi Bellavita, ho preso questa regola numero 5 anche perché viene riportato quel concetto sul quale lei insiste su tutti i suoi libri, a partire dal primo, appunto, che era, lo ricordo ancora, I sogni del faraone, e l'ultimo, La falce del faraone, le 10 regole d'oro per investire in modo sicuro e remunerativo. Cioè la questione che il sistema finanziario, come dire, si muove su ruote quadrate. Perché? Che cosa vuol dire questo concetto? Ma diciamo, questo è un classico paradosso che ad un certo punto è stato portato, ma che secondo me rende molto bene l'idea ad un certo punto del corso. Cioè, quando io vado a cambiare la macchina, di solito io sono un artista e vado a comprare sempre Alfa Romeo e la prima cosa che guardo è se le ruote sono rotonde. Non mi è mai capitato di privilegiare la linea estetica, quella che è la funzionalità nella macchina. Lo trasferisco sul settore finanziario. Nel settore finanziario hanno inserito dei prodotti che secondo me sono degli stupendi prodotti finanziari, che sono i cosiddetti swap, che dovrebbero avere una funzione assicurativa. Allora, se io uso uno swap con uno scopo assicurativo, è uno strumento che ha una ruota rotonda perché funziona bene. Se io invece, quando vado a comprare uno swap, la banca mi vende uno di quei prodotti che vengono definiti not par perché la prestazione delle due controparti non ha lo stesso grado di rischio, ma normalmente uno è sicuro di dominare sull'altra, e normalmente l'intermediario finanziario domina sul cliente, ma va allora compro un prodotto che ha una ruota quadrata e compro un prodotto che sicuramente mi lascerà lì in mezzo alla strada con tutti i danni che saranno a mio carico. Benissimo, allora attenzione, trattiamo la banca come se fosse la concessionaria di un'auto, quindi, oppure anche, come dico io tante volte, il negozio dove compriamo il telefonino. Visto che l'auto la controlliamo tutta nei minimi dettagli, il telefonino pure, finché non ci piace, finché non troviamo quello che ci piace, lo smontiamo tutto per appunto verificarne tutte le funzionalità, col prodotto di investimento dobbiamo fare lo stesso, non ce n'è, non veniamo fuori da questa regola aurea. Ultima parte di Salva Danaio di questo 31 dicembre 2012, una guida ad una lettura, La falce del faraone di Luigi Bellavita, le 10 regole d'oro per investire in modo remunerativo e sicuro. Sì, l'abbiamo detto anche all'inizio, tanti testi in questi ultimi mesi hanno preso ad essere distribuiti sul mercato editoriale per dare naturalmente tutti i suggerimenti agli investitori, ai piccoli investitori soprattutto, per poter affrontare in maniera più serena queste correnti del mercato, a volte un po' dirompenti. Questo è uno dei tanti libri, ma naturalmente il punto di osservazione è anche più interessante se consideriamo che l'autore Luigi Bellavita, oltre ad essere amministratore di una società di consulenza, ha avuto anche una lunga parte della sua carriera svolta proprio all'interno del mondo bancario. Quante ne ha viste in quei periodi, dottor Bellavita, e quante ne ha viste di recente? Qual è il capitolo a cui è più affezionato del suo libro, del suo ultimo libro, che ricordiamo è il quarto di una serie? Ci deve pensare. L'ho messa in difficoltà. Forse direi che sono gli ultimi due, perché ad un certo punto lanciano un messaggio di ottimismo su quello che è il futuro della comunità economica europea, un messaggio che un destino che secondo me non esiste, non presenta altre alternative se non quella del disastro assoluto. Sa invece quale capitolo mi incuriosisce? Il sogno infranto del banchiere. Quali sogni abbiamo infranto ai banchieri? Quelli di non veder più replicati i ricchi bonus degli anni passati. Non me ne viene in mente un altro Bellavita. Il banchiere, secondo me, all'inizio degli anni 2000 avevano un sogno, che era stato quello di vedere, di avere superato, grazie alle nuove formule finanziarie che venivano presentate, quella che era rincorrersi dei periodi di crisi e dei periodi di abbondanza. E direi che questo sogno è durato, cioè difatti hanno effettuato tutta l'operatività sulla base di questo, pensando che utilizzando questi prodotti derivati si riuscissero a superare tutti quegli inconvenienti che erano dovuti praticamente allo scoppio delle bolle speculative. Purtroppo i prodotti derivati sono stati utilizzati male, non solo, ma anche tutti questi prodotti derivati hanno dimostrato una grossa limitazione, che si possono coprire tutti i rischi, ma non c'è niente da fare contro il rischio di liquidità. Cioè i prodotti derivati non sono in grado di creare moneta, sono in grado di proteggerci dal costo della moneta, dal tasso di interesse, dalle variazioni di cambio, al limite, anche se qui bisognerebbe correre molto, dal rischio controparte, anche se questo è più un'illusione e forse un concetto anche un po' più sofisticato, Ma non sono in grado di andare a creare praticamente a ristabilire. Certo, devono essere usati con grande senso di responsabilità da chi li distribuisce, li mette al servizio anche dell'impresa, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare. L'ultima regola del manuale dell'investitore, appunto, che abbiamo tratto dal libro La falce del faraone, è la regola, siamo balzati subito alla numero 10, quella conclusiva, sentiamola. I nonni delle comunità rurali erano soliti rivolgere a figli e nipoti la classica raccomandazione del «mogli e buoi dei paesi tuoi», che non conteneva alcun riferimento di stampo razziale, ma un semplice convincimento che la comunanza di radici, di costumi, di tradizioni potessero rappresentare solide premesse per il successo di nuove e fortunate esperienze. Il vecchio suggerimento potrebbe ora trasformarsi in «mogli, buoi, banche ed aziende dei paesi tuoi». L'esempio del derby franco-tedesco ci dice infatti che i nostri risparmi depositati presso una banca estera, anche se con sportelli nel nostro paese, non vengono normalmente impiegati nello sviluppo della nostra economia, ma semplicemente impiegati a giudizio della direzione generale, dove i ritorni sembrano più promettenti. Ciò anche quando la prospettiva più redditizia sembra essere rappresentata da iniziative speculative contro il paese che ha procurato i mezzi finanziari per promuovere l'attacco. Si potrebbe arrivare al paradosso che i risparmi dei pensionati italiani vengano utilizzati per ridurre le condizioni di vita nostre e dei nostri concittadini, magari distruggendo lo Stato sociale, sacrificando le loro pensioni, peggiorando significativamente i loro programmi di assistenza sociosanitaria per apportarli quali utili agli intermediari finanziari esteri. È questo un aspetto molto delicato, soprattutto nel nostro paese, dove i cittadini sono in gran parte ammalati di esterofilia. Tutto quello che proviene dall'estero viene normalmente considerato migliore dell'equivalente prodotto italiano. È il caso della più prestigiosa marca tedesca di elettrodomestici che faceva costruire alcuni prodotti in Italia. Questi prodotti erano perfettamente identici sotto il profilo tecnico ai corrispondenti prodotti col marchio italiano. L'unica differenza era rappresentata dalla veste esterna per renderla irriconoscibile. L'altra differenza, ben più importante, era rappresentata dal prezzo, 5 volte superiore a quello pagato al costruttore italiano. Un prodotto fatto fare in Italia al costo di lire 900.000 era venduto al cliente finale, sempre italiano, a 4.500.000 lire. Un utilizzo più razionale delle nostre disponibilità, dei nostri risparmi, della nostra capacità di discernimento, superiore a quella comune a molti altri paesi, potrebbe avere ripercussioni estremamente positive sul nostro sviluppo. Proviamo solo a pensare a quanti posti di lavoro in più potremmo creare in Italia se solo, a parità di qualità e di prezzo correttamente valutati, imparassimo a comprare italiano. Il successo di molte nostre imprese sui mercati internazionali ci conferma che la qualità e la tecnologia italiane molte volte gareggiano ed escono vincitrici nei confronti della più agguerrita concorrenza internazionale. Insomma, anche un richiamo a comprare Made in Italy. C'è davvero di tutto in questo suo libro, dottor Bellavita. Questo è un tema sul quale i nostri ascoltatori sono molto sensibili, perché loro vorrebbero effettivamente comprare sempre Made in Italy, nonostante l'accesissima concorrenza cinese che ormai è presente in tutte le nostre città. Qualche volta ancora il però marchio Made in Italy, proprio l'eccellenza, viene considerata anche un po' costosa. Oggi le famiglie italiane devono fare molti sacrifici, come lei sa, qualche volta non se lo possono permettere. Detto questo, un messaggio positivo, così ci piace ugualmente darlo. 4 libri dal 2005. La falce del faraone è l'ultimo. Si è già messo al lavoro per fare la quinta edizione di questo testo? Direi che normalmente devono passare 2 anni. 2 anni, e vabbè, però questo l'ha concluso l'anno scorso. Un'edizione all'altra. Io vorrei onestamente che Giuseppe potesse andare in pensione magari fra 2 anni, appunto, il consulente finanziario del faraone, no? Lo possiamo definire così, sì, anche perché questo significherebbe che finalmente avremmo risolto la maggior parte dei nostri problemi. Noi ce lo mandiamo in pensione, ma quanti anni ha Giuseppe? Ha raggiunto il requisito anagrafico? La Fornero gli darà l'ok? Penso di sì. Ecco, bisogna vedere anche questo. Senta, siccome il suo libro è dedicato anche ai piccoli risparmiatori, secondo lei che 2013 vivremo da questo punto di vista, dal punto di vista dei nostri risparmi? Allora, io dividerei la cosa. Dal punto di vista italiano, io penso che potremmo vivere un 2013 leggermente migliore, magari cominciare dalla seconda parte del 2012, anche se non tutte le bolle speculative sono state risolte. Mi rivolgo principalmente alla bolla del settore immobiliare, che sta cominciando ad essere risolta, ma che probabilmente ha ancora qualche cosa nei prezzi da correggere, perché mi sembra... Non abbiamo però avuto una bolla in Italia, abbiamo avuto delle quotazioni in certe città un po' troppo alte, ma non abbiamo avuto una bolla paragonabile alla Spagna, questo lei lo sa. Sì, però abbiamo, se lei va in giro per città e per paesi, si vedono in giro delle case che sono disabitate e magari non ancora finite. Però non abbiamo avuto anche lo stress di edificazione che ha subito la Spagna. Sì, un po' meno, però c'è stato anche abbastanza qui da noi. Però vorrei ritornare un attimino sulla regola numero 10. Certo. Allora, secondo me la regola numero 10 è stata scritta perché è quello che a me sembra che manchi in Italia, il sistema paese. Allora, io penso che una nazione con le nostre potenzialità, dove l'80% della popolazione è proprietario della casa in cui vive, dovrebbe avere, in presenza di un sistema paese, la possibilità di recuperare molto in termini di qualità della vita, in termini di tenore di vita, in termini di... Lei mi dice, è vero che i prodotti italiani costano di più, io su questo ho dei dubbi. Noi ad esempio andiamo a comprare delle macchine tedesche, non le posso fare la marca, ma io le posso dire che ci sono delle case automobilistiche tedesche che oggi attrezzano il 100% della loro produzione con motori Fiat prodotti in casa nostra. Allora forse magari costa di meno la Fiat e anche meglio la Fiat. Io le faccio l'esempio estremo. Io dico che in questo momento la famiglia italiana, tra l'acquistare il maglione di cashmere di Brunello Cucinelli da 1.000-1.500 euro, chiaramente deve per forza indirizzarsi su un altro prodotto, magari anche italiano, evidentemente, però diciamo di qualità differente. Questo è il ragionamento che le faccio. Poi tutti quanti siamo dei grandi amanti del nostro paese, dalla cucina all'abbigliamento, lei lo sa, insomma, non è una però cosa lei, da lei mi ha, ecco. mi ha preso un prodotto di prestigio, certo. Di pregio, dico. Consideriamo anche che a parità di prezzo, se io compro due automobili che costano lo stesso prezzo e compro la macchina italiana fatta in Italia, do lavoro all'operaio italiano, do lavoro al tecnico italiano, certo. Non lavoro al ecco, a me sembra che questo discorso in Italia venga stia mancando. Ci siamo preoccupati di non poter più comprare il BOT o il BTP, ma insomma voler bene al nostro paese non significa solamente investire il titolo di Stato, ma anche, certamente, ha ragione. Bellavita, la nostra trasmissione sta volgendo al termine, però magari un'ultima riflessione dedicata al popolo dei risparmiatori, che è quello al quale si rivolge il suo libro, appunto. Quale ultima raccomandazione dobbiamo fare per salutare il vecchio anno e aprire e salutare il nuovo, naturalmente sotto i migliori auspici? Ma io direi farei una raccomandazione. Prima di tutto, ad un certo punto, di quando andiamo in banca un intermediario finanziario, tanto ci dobbiamo andare, non c'è scampo, di portarci dietro, oltre alle nostre scarpe, anche il nostro cervello. Di avere, di recuperare più coraggio nel fronteggiare questo tipo di discorso, di effettuarlo con trasparenza e di non dimenticare che la situazione finanziaria è in continua evoluzione. Le dico questo perché io, che sono finora qui un tifoso dei titoli di Stato, penso che con la diminuzione dello spread, magari fra 2, 3, 4, 5 mesi, non lo so, può darsi che il tempo dei titoli di Stato volga un po' al tramonto e bisognerà indirizzarsi verso altre tipologie di investimento. Non tutti gli investimenti che non sono titoli di Stato rappresentano il diavolo. Se fatti dovutamente e con grano salice e con intelligenza, possono anche apportare nel medio periodo dei risultati soddisfacenti. Insomma, stressiamo il concetto che il 2013 dovrà essere un anno all'insegna della responsabilità delle scelte di investimento di tutti, dal piccolo al grande risparmiatore. Grazie, dottor Bellavita, Luigi Bellavita, l'autore della Falce del Faraone. Buona grazie. Giornata, a presto e buon anno soprattutto. Ci buon risentiamo anno l'anno voi, prossimo. Grazie anche a voi. Grazie a Laura Faggin per l'aiuto in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica, da Deborah Rosciani, dalla redazione di Salvadanaio, naturalmente. Buon anno a tutti.